Hola. Chi c'è qua? Babbo Natale. Ciao Claudio, sono morto di caldo. Ho lavato la macchina. Mentre fuori, adesso sembra una macchina e non un mondezzaio. Buonasera a tutti, non so chi ci sia, Non so se ci sia nessuno, so qua in ascolto, no. Non sento nessuno. Marco. Raola, l'ha fatta bene, dentro e fuori, tolta anche la sabbia, tutto. Sì, aspirate, tutto, limite, per finire per sollevare polverina che c'è sul cruscotto, sai, con la fine. Però per il resto. Perché domani vorrei andare da quel tipo lì al monte, lì, quello che mi avete detto voi. E vediamo se si può fare qualcosa, dai. Al monte? Ma domani è domenica. È lunedì, volevo dire, dai. Gatto. Io. Almeno è pulita, non è tutta sporca. Dove l'hai lavata? Ci sta marcato. Eia. Tutto. Aspetta un po' che sto facendo la manovra. Allora, Claudio, riesci a vedere? Mi ascolta, la sì, sto uscendo. Allora, prima ho fatto il prelavaggio, poi la spazzola con la bella schiuma, i due risciacqui e la cera anche li ho messo. Qui dentro tutta aspirata, prima quando era a casa ho tolto tutto non essere cera, la terra, la sabbia, i pezzi di carta, le bottiglie di plastica, un mutilaggio. E già la giudice non ti preoccupa, però se l'hai pulita adesso già va bene. Ehi, ma non c'è nemmeno un attolino? No, non sento nessuno io. Ora mi ascolto sui canali alti, c'è la propagazione lì sul 45, poi sul 42 ho trovato Massimiliano, stavo facendo le chiacchiere con lui, sono sceso qua, ma non c'è sta nessuno. Eia, adesso me ne vado al mare, me ne vado a inviare... Dove vai? Me ne vado al mare, mi voglio vedere i lidi e mi piglio un caffè là. Oh, sì, so. Eia, Claudio, voglio smentire un po', dai. Perché non è che sono uscito solo a lavare la macchina, voglio farmi un giro, ho messo la benzina mia. Oh, finalmente, un po' di respiro. Ho detto, ma sono sempre a casa, sempre svegliato, dormito la mattina. Non si può stare così. Oh, mi senti a questa distanza, perché così il microfono non lo vedono gli eventuali stradali vicini. Io lo credo che ti sento la grande. Via, allora, aspetta che sto girando. Adesso ho il 3009, ho il display blu, 5 watt, e microfono 35 da palmo, vai, il solito, quello che esce più acuto con il cuore. Esce bene, esce fuori. Esce benissimo con il microfono, il segnale sì, inoltre, abbondante, dove sì. Allora, sono uscito da Lucian, adesso vado per la 131. Va bene. Ultimo con la truppa, l'antenna quale c'è, quella grande? Sì, quella lunga da 1,60. E allora per quello, stai arrivando benissimo, 3,9, sì. Adesso vediamo quando vai nella 1,3,1, vediamo. Natalina! Pensi che se ne sia andato al mare mio a passeggiare con la moglie? Io non so se ci sono manifestazioni, qualcosa, non so. Non so, penso ci sia qualcosa in Piazza Italia stanotte, non so. Io non vado da nessuna parte, sono uscito stamattina, ho tutta la mattina in giro, anche in moto sono uscito, stasera a casa perché domani mi devo fare presto. Ehi, insomma non è entrato nessuno, ma sai cos'è? Oggi è sabato, chi va in campagna, chi va al mare, chi va a Pilacina, in Cora del Gossamà, come si dice? Sono più quelli che si hanno invidiato in Gamma del Gossamà che quelli che sono andati al mare. Quindi magari gente in campagna, c'è per la giornata, capito? Ma va bene, ci sta, chi c'è la campagna, ci sta, capito, andare a... stare in campagna, lo stai attaccando la baracchina a Fagoscia. Io volevo preparare tanto per così per vedere se c'era qualcuno, almeno in fatta compagnia. Beh, è certo che sì, no, io sono qua, dove ho acceso poco fa, ho fatto una sui canali alti, poi c'è quella caffè accese. Stavo ascoltando, c'è il contesto delle sezioni oggi. Allora, ho trovato tutto, adesso solo questa accesa, è il 4.30 che sta scaldando. C'hai ragione. Ecco qua, boia, esce adesso c'è sbirreria, no, pare di no. Sbirreria, cosa vuol dire? Sbirreria, controlli. Ah, controlli, ho capito, ho capito. Beh, oggi è sabato, già c'è sicuramente un po' di traffico di quella gente, capito? Perché è giusto così, fine settimana è sempre più a rischio, più traffico. E allora, riesci a venire per te, sì? No, non me ne vuole uscire, penso sempre a casa, ho detto, ma tu, fallo per me, esci con me, almeno esco di casa. Solo che giustamente uno dice, no, io devo uscire con me a 45 anni, posso uscire da soli, faccio una passeggiata, sono lì punti, vediamo se sei Giulio ci sei all'ascolto, negativo, là. E vi faccio una passeggiata sul litorale, prima vado a Pontamona, la rotonda, poi proseguo, faccio terzo pettine, quinto pettine, voglio vedere com'è la situazione, Claudio, perché l'anno scorso stavano facendo dei lavori, hai capito? Sì, ma io ci passo tutti i giorni, non ne ho visto di lavori. Non ne ho visto lavori, ho visto solo che stavano tagliando l'erba, facendo i trattori, pulendo le strade, capito? E basta. Non so, non penso se buon piano oggi di sabato a fare lavori. Però da un bel che non scendo più giù, capito? Perché poi io giro lì al bivio per sorso, quindi non faccio tutta la panoramica. Arrivo sino all'incrocio c'è lì libero e poi giro, capito? Sei un amico, povero gatto, dai un'occhiata al quadrenne, cioè se stai un pigiato, molto quadrenne c'è, molto rumore di fondo, senti? Mi sa di sì? Sì, ma con la modulazione lo copio tranquillamente, un po' fuori dalla radio. Ehi, sono manetta, l'ho messo in manetta, non lo vedo magari, controlli lo passo. Va bene, lascialo stare così. Lascialo così che già va bene alla grande. Venga, sto girando con i vetri aperti dietro, lo sai? Siccome qua non posso aprire quelli davanti, ho aperto tutti i vetri dietro. E c'è una bella arietta, sta veramente bene. Sì, c'è aria fresca, cioè non è vento caldo. Però domani c'è che è una giornata calda. Sì, sapevo io quello, che tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare un'ondata di caldo africano. Quindi domani molto probabilmente andremo al mare, lunedì no, perché devo andare a questo meccanico. Bisogna risolvere la storia prima di fine giugno, perché abbiamo la revisione. E se poi se non risolviamo, io gli dico a quello della revisione, sì, ti ascolti, l'impianto elettrico è tutto a posto, il motore a posto, lo scarico a posto, le gomme sono a posto, la macchina è tutto a posto, però stiamo aspettando un pezzo dalla Opel e non arriverà in tempo. Ho detto, è un problema per la revisione, i vetri anteriori, il meccanico mi dirà, no, non è un problema, l'importante funzionano le luci, i freni, eccetera, eccetera. Non bisogna fare il meccanico del motore, se devi cambiare un pezzo, l'importante sia efficiente la macchina, luci, freni, di cristallo, i fari a posto, cioè la macchina deve essere marciata in quelle condizioni, capito? Se tu devi sostituire un pezzo, il motore, lui poco gliene frega. Ehi, no, per il posto, è normale, sono questi pezzi non sono perché bisogna metterli a posto, bisogna aggiustare il contatto elettrico, guarda, se noi troviamo il pezzo originale è di lusso, perché non fai altro che attaccare un connettore multipolo, uno spinottone c'è, lo attacchi e l'ho fatto lì, pochi barauli. Sì, ma se vai lì via Cosio, da quello elettrico che ti ho detto io, lo sistema. Magari ti fa qualche intuglio, ma già te lo sistema, capito? Molto bravo. Guarda, non ci sono problemi. Magari ce l'ha anche lui, qualche interruttore di quelli, te ne mette un altro, te lo modifica. Ma già te lo mette a posto, non ti preoccupare. Sì, quell'elettrauto, voglio andare da lui. Come la via, Montello? ci siamo quello. Grosso modo angolo con. Guarda, è l'ultimo semaforo prima della rotonda di via Pascoli, ok? La rotonda grande c'è via Pascoli. L'ultimo semaforo, come tu arrivi al semaforo se fai via Pascoli scendendo, giri subito a destra. Ok, Joe, ok. Va bene, va bene, va bene. Ma avrei voluto più persone alla radio, ma pazienza, l'importante è uscire, prendere un pochino d'aria. Ehi, io c'è un certo la scopo che non ha negato l'entra. Cosa vuol dire? Non so, io adesso più vale, non ho gente troppo in radio. Io durante la settimana sono assente perché il lavoro non me lo permette, la sera verso le 7, 7 e mezza, allora lì ci sono, ma prima non. Non ci riesco, soprattutto dal lunedì in poi c'è un sacco di cose da fare. Venga, aggiungo 3 giura. E vabbè, dai, anch'io tra cazzo che casino, tra mare, commissioni, le macchine, eccetera. Poi dobbiamo pigliare appuntamento al dentista perché mi si è spaccato l'incisivo, ui! Anche come si chiama? Possetti, Possetti! Ce n'era una, io ero un po' giovane, mannaggia! Mi si è spaccato l'incisivo in verticale, e quindi un pezzo se ne è caduto, rimane l'altro pezzo in verticale. Quindi io spero che lo possano ricostruire, siccome c'è la figlia, diciamo, no? Sì, se c'è. Se si può, già si può costruire, se no vai a Selfie, ha visto quel dentista che c'è di Selfie, quanto è bravo. E poi mamma si vuole mettere la dentiera, perché tanto lì pochi e messi male, c'ha due punti di appoggio del polso, forse riescono ad alcanciargliela, non so come sia, non me ne intendo. Però si vuole mettere la dentiera, vuole c'è i denti belli, anche se sono finti, sono sempre belli. Attento, ma qui in fondo! Natalina, caro caro, dove sei? Qui a casa sono, Marcolino. Io sono da Platamona, mia, la rotonda. E poi mi faccio un giro alla litoranea. Come arrivo di segnale? Guarda un po', 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. La 8 all'ovio oscillante, sì, Marco. Marco? I componenti della barra mobile. Io sono arrivato adesso che ero invitato a un compleanno, rapito. Ma adesso fuori strada? Come esci fuori strada? Non ti emozionare, guarda avanti, tu la frega, te ne frega. Come? Sì, sto rientrando adesso, Marco. Sono Marco. Al limite. Intanto siamo rientrati adesso, se no ci avevamo fatto un giro lì a Platamona a prenderci il gelato. Sono rientrato adesso con mia moglie e l'amica di mia moglie. Eravamo a un compleanno, rapito, di un amico. Di un amico. Andrò bene meta, finalmente ti sei deciso, almeno avrà un aspetto più decente. Oh signor, aspetta un attimo Marco, che devo dare una cosa a mia moglie, se no mi arruccia. La qua, io sono a casa. Ieri ti ho visto, mi hai salutato, ti ho anche suonato, da Bricco, da Bricocino. Mi hai visto ieri? Ieri mattina, c'è nella 1, Bianca c'ha l'antenna nel braccio. Sì, e tu lo vedi, da Bricco City, sono andato a prendere una cosa per mia moglie. Tu stavi entrando, io stavo uscendo, il cuore bianco, non te ne sei neanche accorto. No, ti giuro, cazzo, non ci ho fatto neanche cosa, non mi pulisci mai, cazzo. Ti ho chiamato, allora anch'io ma c'è rispetto. Ah, allora chi ma ce l'avevo spento, sì, spento, sì. Come mai oggi ti sento forte? Stavo parlando con Marco, che è un bravobile, capito? Ho mangiato qualcosina. Ma poi ha risolto il problema? Io mi sono offerto, quella volta, per il momento no, e allora io ho detto cosa vuoi ti dica? Siamo arrivati ancora, che ci hanno detto di aspettare, ho capito. E allora Marco? Te la faccio. Io te la spingo, parola di gringo. Di gringo. Ciao, pompu. Pompu. Sì, sono tutti. Ciao. Marco, stiamo al corrente, ti scappa. Poi, un pugno, e allora? E allora, come va? Dimmi tutto. Aspetta, sta riservando la mano. Ciao, Marco. Ciao. Marco se ne scende, se non avete sentito. E non è che Marco lo sento io. Non arriva nemmeno qua. E ha piazzato la rotta del piazzamone. Non arriva per niente, non limita me l'antenna. Passa il limite in PMR, perché almeno lo sento io. Evidentemente c'ha quell'antenna piccolina, anche qui arrivava a stento. Mentre il PMR arriva lì, arriva forte qua, a casa mia, quindi non c'è problema. Adesso va bene, puntata io adesso a Oschi, l'antenna, perché c'è il Cervelli, quindi l'ho puntata lì. Io non ho più di quella roba, solo questo qui e questo qui. Ah, come vai? Sei stufato del VU? Mi sono stufato, sì. Cazzo, che tu mi intendi? Cazzo, non mi intendi? La maggior parte non mi intendi, allora giù la gabbia. Ah, io ce l'ho sempre con la roba lì. Ci mancherebbe. Quindi, dai, vabbè, che sono più alto, quindi è per quello che c'ho, uso l'apparecchiatura per l'altro. Io sono in basso, chi mi sente mi sente, chi non mi sente non mi sente. Se vuoi dica, me ne sto uscendo io. Sei la Puglia, prima di Santiago 3, ma mi faccio fatica a sentirti, adesso sei io sto pieno. Fai puzza. Prima stavo uscendo basso basso. Però arrivati a questo punto cosa me ne affutti? Se uno è lontano mi deve sentire. No, adesso va bene, come le va bene? Ma sai quel tonino quanto mi ha sparato per il linearetto della macchina? Tanta io, chi sei matto? Potete avere Cesco, due BV181 Cesco, a valvole, limitazione, collegate in parallelo, c'è 250 watt, c'hai. Io lo so, ma a me mi serviva per la macchina, ma piccolino per la macchina, ha detto, e mi pari 80 euro. Non si faccia a pari, nessun lungo, chi ci usano, non hanno, è manco, a fare gualla. Prova su Radio Svizzera, che ce li ha poco tempo. Sì, la Leoncino c'è lineare, già lo sai, lui qui c'è la Leoncino, di quei lineari, lo chiede a lui, lo devo vendere lui. Io siccome non c'è il numero di Leoncino, li ho persi tutti i numeri, no? Vado a chiamarlo tu a vedere se viene e me lo va. Il lineareto. Me si sia corretto da, che intanto mi serve per la macchina. Sì, vabbè, stasera se lo sento glielo dico là. Se ci vuole via vedere domani mattina con lui. Fratello, quindi se passi da fratello lo vedi lì. Fatemi un colpo di telefono, al limite. Tu già ce l'hai il mio numero, no? No, no, c'è bello quello, quindi a lui deve molto, lo sa anche da lui, già lo sai, lui deve il numero di telefono tuo e quindi sta stato da lui, non si preoccupare. Signora dell'Isola Santa, buonasera, le stesse 50 Salvatore, provincia Catania, vi saluta. Attenzione, attenzione, Salvatore, provincia di Catania, ci ascolti qua in nostra Sardegna, città di Porto Torres, città del ferro, cambio. Facciamo la mano, siamo una musica. Avanti per te e saluto il quartiere rispettivo, cambio. Va bene, KK, sei in compagnia di un po' di Antonello Pomponio, del Natalino Alfa 1, pieno avanti, buongiorno. Buonasera, ben ascoltato. Comunque devi dirmi baciamo le mani perché sono un pomponio. E la Sardegna qui, provincia di Sasso, li comando io, Ah, baciamo le mani 73, e spesso 50 Salvatore, saluta te, famiglia, tutti amici, un lì sulla carta, Avanti per la fuori, cambio. Ah, Salvatore, qua Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari, avanti, sei ancora a te, se mi ascolti, cambio. Salvatore 73, da questa parte, alle prossime, vai avanti, avanti. Dai, ripeto io, ok Salvatore, ciao, alle prossime, ciao, ti ho sentito, ripeti Pomponi. Pomponi è morto. Saluto da un bambino. E su qua si va a nove dietro, è di tutto. Salute ragazzi, ho da fare, dai, ciao, ci sentiamo, ciao a tutti, saluti. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio, ci sentiamo. Ma non c'è coso, Claudio? No, si è sentato, c'è la gente, quindi non può parlare, dai, ci sentiamo dopo, adesso. Stasera un sacco di preparazione, E col caldo purtroppo, quando arriva il caldo arriva anche la propagazione, ragazzi. Quello con l'eco, ma cosa è la camera eco del baracchino? No, quello del baracchino, un altro uguale in macchina. Non ho capito un cavolo, sì. A casa ho detto il pubblicino da pronto. No, non ho detto più nulla, che vuoi che ti dica? Io stasera sto parlando con Marco che è in macchina e quindi... Aspetta un attimo se mi sento. Hola. Adesso, è stato perché c'era Marco in macchina per sentirmi, se no generalmente esco con non più di 3 watt, perché quello si può regolare questo qui. Ma quando esci 3 watt io non ci sento, faccio proprio fatica, ad esempio oggi dalle mie parti ci sono con il corriere. Lo so. Se uscire sempre così, allora, dove ti piglia? Così si arrabbiate, di brutto. E comunque sicuramente non lo disturbi, sicuramente se ha fatto qualcosa non lo disturbi più, se no sarebbe venuto a dirtelo. Sì, vediamo, cosa vuoi dire, figa. Sto cosa in più di basso, ma non si fa nessuno. Ah, tranquillo, non disturbi più nessuno, se no sarebbe venuto. Perché sei su la televisione fastidioso, sei detenuto dal tranquillo. Avanti, chi chiama il canale 10, cambio! E poi tanto ci faccio un di uno. Vabbè, ma tanto ci sentiamo, dai, che va bene adesso, ciao! Ciao, sì, che fa il problema della 50. Sei aereo, vai tranquillo, ci sentiamo, ciao, ciao! Ciao, ciao! Che schifo che è! Mamma mia, quanto è brutta! Scusami che mi ha distratto mia moglie, cosa hai detto Marco? Sto avvistando Sassari, che brutta, che sembra un buco di culo appoggiato sulla collina. Da lontano non è bella. Da lontano l'unico vista bella lì della Litorania è Castelsardo. Bellissimo Castelsardo anche di notte. Eia. Bene, beh sì, è scorrevole comunque, molto scorrevole. No, beh, la Budurri c'è l'ultimo tratto lì di Graziella da finire e basta, per esempio lo faccio quasi tutti i giorni. A volte passo a San Camillo per andare a Sorso, a volte passo da lì, però è molto scorrevole, capito? Molto scorrevole, soprattutto nelle ore di punta, perché ha quattro corsie, due a salire e due a scendere. Eia, ancora non l'ho finita però perché... Ah no, ho capito. No, qua c'è la deviazione, ho capito tutto. Sì, l'ultimo tratto, lì dove ci va il ponte, capito, lì è un po' più difficile, evidentemente la parte è un po' più alta, quindi insomma... Però per il resto è finita, non è che possiamo lamentarci, dai. No, è molto comoda. Soprattutto non ci sono i semafori di punti, semafori di ottava, è tutto libero. No, va benissimo, sono le rotatorie giuste, gli incroci giusti, va bene. L'ultimo tratto che poi non è neanche così lungo, quel pezzettino che c'è, capito? Se poi va a congiungere con l'altro, ma lì ci va il ponte. Perciò chissà, vabbè che lo finiscono quello. Ripeto, linea di massima, va bene, dai. Io ho preso adesso la deviazione. Guarda, da quando sei partito, leggermente più basso 8, poi sei sempre sul 9,95, sempre ultimo. Eia, 5 watt questo apparato, e non 4, 5. Questo è quello non un gatto. Quindi c'è anche canali alti volendo. Sì, ma evidentemente c'hai l'antenna buona, capito? Ben accordata, va bene. Perché ti ripeto, un pochino più basso eri quando eri giù nella bassa valle, ma devi considerare anche dove sono io, quindi ti vedo. Ho vista ottica, però sei sempre sul 9,95, tranquillo, senza problemi, Marco. Adesso stiamo facendo quel giro tondo a me, quella rotatoria infinita a me che fa tutto il giro, ecco. E sono bello in alto qua, si vede tutto. Sì, io avevo ancora la Budurri, proprio la seguo tranquillamente, no? Non ci sono problemi, anche perché c'ho vista ottica a Porto Torres, quindi tutta la zona lì bassa, non problemi. Eia, bello sto baracchino però, questo, guarda, il 2009 è il più silenzioso baracchino di tutti quelli che ho. Se per stare bellissimo baracchino io l'ho avuto, funzionano bene, non creano problemi e insomma sono molto molto selettivi come baracchini, vanno benissimo. Sì, perché gli altri no, gli altri, quelli nuovo coso, anche senza, in assenza di quadremi, hanno tre fisso i quadremi, come li hanno rogati. In realtà il quadremi non c'è, ma loro hanno questo fruscio a tre, questo invece è molto, molto silenzioso in macchina. Infatti i tre, ne ho tre, due sono 3.900 veri e propri, l'altro è quello che voleva coso, che voleva Eugenio, col frequenzimetro, sono tutti e tre validissimi. E io non due sono validissimi, funzionano bene anche a te. Io ce l'ho avuto, 2009, funziona bene, funziona molto bene, capito? Però io baracchini pure non ne ho usato più, ho sempre usato questi, ma non ha vita, capito? Poi vanno anche bene, perché li uso anche come, a volte non accendo quelli grandi, gli FF, accendo questo, io mi posso ascoltare in 40, 20, 10. Quello che capita, non so quando c'è un tempo, ho detto, ma che ci siamo ancora da fare, anche se posso, ma no, la voglia è sempre poca. Eia, sono 40 dosi, perché quella che dà verso il distributore, la Copic. Bello è, non c'è nemmeno uno stop qua, è un bijou, mi sa che userò questa per andare al mare. È quello che devi usare allora, da lì, da te, una salire e una scendere, quindi non incroci macchine, ho detto quel pezzo l'ho fatto apposta. Invece quel pezzino, quel pezzettino che ci va al ponte, ma poi è tutta scorrevole. Non c'è problema. Luci gialle! Esce, vedi? Luci gialle! Aspetta, devo mettermi, nessuno c'è, vai, vai! Bello, bello, no, ma sai cos'è? Proprio a Pamona, la rotonda, conviene più passare dalla 131, perché c'è il bivio lì, no? C'è il bivio e arrivi subito lì, eccetera. Aspetta, devo guidare, stavo sbagliando per il microfono, mi devo stare attento. No, no, stai attento, stai attento. C'era un sistema che avevamo adottato anni fa, più barchi in macchina, capito? Era quel microfono che ci metteva un microfonino per schiacciarvi il DTT guidando. Ehi, allora l'Intec produce un baracchino, l'Intec 899, che ha, aspetta che c'è, no, che ha l'ingresso per cuffie e auricolare. Tu in macchina ti metti quello, premi il PTT, te lo metti al volante, lo premi e non stacchi le mani al volante, capito? Sì, sì, ma ci sono quelle cuffie al microfono, ci sono, da attaccare al, si attaccavano dietro il PA, capito? Eppure, boh, non li hanno fatti più, evidentemente erano una fesseria, una stronzata, non lo so, poi li ho conosciuti e... andava molto bene, soprattutto per andare in moto. Eia, solo che a me piace più il microfono vero, dai, non mettere queste cose nelle orecchie, non mi piace. Dopo mi te l'ho detto, se ci sono conculli lo metto qua, lo metto sulle gambe, ma vedo la lanciata sale lo stesso, no? Eia, è un rio, fortissima come la radio, va bene, anche se la tieni lontano, va bene. Eia, Natalino, dove sei, Natalino? Tu, vai, Parigio. Non lo so che andare, se non è uscito, di nuovo, boh. E sai cos'è, sarà stanco dal compleanno, perché lì si mangia un bel, c'è casino, no? Si starà riposando adesso. Ah, mi lapo da Luponti, mi. Cosa, Marco? Ah, mi lapo da Luponti. No, non lo fare, tanto. Mi, ci sono i fiori per quella poveretta che si era buttata, quella signora Belloccia. Tutto fiori, poveretta. Però anche perché non ci sono le strutture adatte a... Le strutture adatte, dai. Persone qualificate che vorranno fare certi gesti. Sollevate, vogliono... Vogliono essere gratte di... Vogliono sollevate, non ne hanno mai messo, hai capito? Non va bene così. Hai visto dove sei entrato tu che hai fatto la rotonda lì, di fronte a quella frutta e verdura grande che c'è all'angolo del semaforo, quella è via Montello, da lì giri a sinistra, mentre invece venendo in senso contrario da dove sei adesso giri a destra al semaforo, quella è via Montello, 50 metri e c'è mudato. Ehi, aspetta, via Lamberto, via Lamberto, eccomi in via Lamberto. Vedo negri dappertutto, lo sai. Aspetta, aspetta. Cazzo. È tutto pieno. Ti giri, è tutto pieno. Tu immaginati che la tua fantasy non ha aperto a giugno, perché ancora ci sono questi negri. Chissà se apre a luglio, ancora è chiusa la tua fantasy. No, giro qua, giro in viale Trieste. Ehi, sei arrivato, eh. Ehi, viale Trieste, qui, viale Caprera. Sono quasi arrivato, beh. E stamattina c'ero io. Sono per te la posta via San Francesco, la casa che abbiamo venuto. Che ancora mio cognato non ha fatto la disdetta, quindi a volte arrivo apposta, sono andato, facciamo che io raccomandate su. Capito? Io proprio lì, sono passato avanti a casa tua e morto. Ehi, ma tu non l'hai mai vista l'antenna mia, no? Ti liberi la scuola qualche foto, dai. I vari punti di osservazione qui si vede. E dove l'hai mandata? Ce l'ho. Ce l'ho, hai attaccato la parabola. No, l'antenna PMR. Ah, quella antenna PMR, ho capito. L'altra no, non l'ho vista. No, sono orientativamente dove abiti, ma no, non so il punto esatto, ho capito, quindi non sono? 33. Esatto. 33. Non capisco, ho capito. Ma è 30, non Trieste. Oh, non è la Liscia, no? Ah, lì sì, ho capito. E sono passato proprio lì stamattina. Sì, una volta abitavo in Viale Mameli. Prima o dopo l'assessorato? Dopo. Dove c'è Mario Nottario, più giù. Allora, dove c'è l'assessorato e Viale Mameli? Io sono a 50 metri dal... Sì, sì, sì, sì, ho capito perfettamente. Sì, sono passato proprio lì stamattina. Sono passato proprio lì stamattina. Ma così brutto, non sono mai entrato lì. Quindi tu di fronte a te lì sei conosciuto a Gufo Tisser, non il gufo nostro che abbiamo adesso, prima c'era il gufo triste Gianni, era rematore. Ecco, non lo so, non è... Qui all'epoca sai, guardi, non c'è un posto, questi sconti non escono mai. Guarda, mamma mia, voi quando ero via Pascoli, non vai già col garage, ho tre macchine, capito? E qua c'ho due all'interno, ne ho di posti auto, però come hai visto qua la via è grande, quindi la macchina posteggio c'è sempre fuori. Cioè cosa faccio adesso? Faccio il giro, pulo il baracchino e l'antenna, no, lo smonto io, lo porto a casa e poi parcheggio. Ma infatti, era rotto un buco. L'importante è adesso ti togli tutto e ci porti a casa più un buco già lo trovi. Via, c'è già un parcheggio, ma se lo prenderanno. C'è un altro, due parcheggi già, dai. Non è un problema, Claudio, bene o male, anche a voi anche lo trovo, dai. Ok, nel caso Claudio ritieniti salutato, dai, meno male, grazie, mi hai fatto compagnia durante la guida. Ora mi ha fatto bene prendere una boccata d'aria, perché gli ho detto, ma sono sempre a casa, sempre dormito, e qua c'è qualcosa che non va, ho depressione, devo uscire di più, devo montare di più, ma dice Ivan, devo montare di più. Vabbè, ma lui c'è la testa montata, capito? Sto imboccando la via, Ciao Claudio, sacco tutto, ci metterò un po'. Ciao domani, ciao per previsto, ciao. Ciao Marco, se vuoi io sono qua in ascolto. Ciao. 4時からの中東アフリカ向けの 6.09 メガヘルツ、アフリカ向けの 15.0 メガヘルツの周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 K の国際放送です。